il tema del perdono non ha eguali per quanto riguarda le relazioni, sia che esse siano nell'ambito umano che in quello divino. Poiché non vi è nessun giusto, neppure uno, poiché tutti manchiamo in molte cose e in mille maniere, le nostre relazioni con gli uomini e con il divino saranno sempre destinate a subire delle incrinature, se non delle letali fratture, a meno che non subentri un atteggiamento che può ripristinare il rapporto, cioè il perdono. Il perdono, o l'atto del perdonare, è una delle virtù più indispensabili perché possa esserci la convivenza, la pace, l'armonia, la serenità. L'odio, le guerre morali e civili, le vendette, le divisioni, non sono solo il risultato di una incapacità dell'uomo di essere perfetto, ma soprattutto si verificano perché l'uomo non sa perdonare. Perciò, perdonare non è solo un bene personale e civile, ma è necessario per tante ragioni. Purtroppo, come per tante preziose verità, anche il tema del perdono è oggetto di disaccordo tra coloro che professano di credere in Gesù Cristo, a volte per partito preso, come nel caso del cattolicesimo, a volte per una imperfetta conoscenza delle Scritture. Per questo è più che opportuno considerare il perdono alla luce della parola di Dio. Benché il perdono sia uno, per non fare di tutte le erbe un fascio, prenderemo in considerazione i vari tipi e modi di perdonare. Vi è il perdono di Dio, vi è il perdono reciproco, vi è il perdono unilaterale, vi è il perdono condizionato e incondizionato. Per incoraggiare chiunque a perdonare, possiamo brevemente ricordare alcune ragioni fondamentali per le quali occorre perdonare. 1. Occorre perdonare perché lo ha richiesto Dio. 2. Perché è un atto di misericordia. 3. Perché è essenziale per essere liberi da chi ci ha offesi o ha commesso dei torti nei nostri confronti. 4. È necessario perdonare perché a volte il risarcimento del torto è impossibile, come nel caso di una invalidità fisica permanente o la perdita della verginità. 5. Infine, è indispensabile perdonare per non scoraggiare chi ha commesso dei torti. 1 Corinzi 2:10. Vi è inoltre un'altra ragione la quale, pur non avendo una motivazione spirituale, dovrebbe spingerci al perdono, almeno per un vantaggio egoistico, il benessere personale che ricaviamo da questo atto. È stato detto che è proprio stupido nutrire dell'odio, perché mentre noi stiamo soffrendo, la persona odiata non se ne accorge e sta bene. Oppure, come disse qualcun altro, mancare di perdono equivale a bere un bicchiere di veleno, sperando che colui al quale rifiuti di perdonare muoia. Non è possibile iniziare a parlare del perdono senza tener conto del perdono di Dio. Ogni atto di perdono, per essere tale, deve scaturire da e essere simile a colui che è la fonte e l'emblema del perdono, cioè Dio. Poiché l'uomo con i suoi atti e le parole trasgredisce del continuo la legge divina, nel suo piano di misericordia Dio ha deciso di perdonare chiunque pone fede nell'opera sufficiente di Cristo Gesù. L'Apostolo Paolo riassunse il messaggio di Dio quando disse: Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. 2 Corinzi 5, 18-19. Quindi i peccati di tutti coloro che sono vissuti dopo il sacrificio di Cristo erano già perdonati da prima che essi nascessero. Virtualmente i peccati erano perdonati anche a coloro che hanno vissuto prima della morte di Cristo, ma solo dopo la sua resurrezione il perdono è diventato effettivo, concreto, reale. Quindi al peccatore perduto non resta che confessare le sue colpe e ricevere il perdono di Dio. Purtroppo, il terribile errore del cattolicesimo con il suo moralismo e religiosismo ha infettato moralmente e teologicamente chi ha posto fede in Gesù. Poiché per il cattolicesimo romano il credente non ha tutti i peccati già perdonati, cioè quelli passati, presenti e futuri, e di conseguenza non può avere un cuore riconoscente per la certezza della salvezza della propria anima, nei loro culti i credenti cattolici continuano a chiedere perdono dei peccati, e anche con una insistenza quasi nauseante. ma chi ha la convinzione di essere stato già pienamente perdonato quando si renderà conto di essere colpevole, confesserà di aver sbagliato, sarà pentito, eviterà di sbagliare ancora, ma non chiederà perdono dei peccati. Chi ha posto fede in Gesù si rallegrerà del perdono ricevuto, vivrà con l'atteggiamento di un perdonato. Poiché il perdono di Dio è stato gratuito, poiché Dio non ha chiesto delle condizioni per perdonare il peccatore, chi teme Dio terrà presente questo principio quando sarà chiamato a perdonare il prossimo. Il vero perdono non chiede delle condizioni, non aspetta un miglioramento di chi ha sbagliato, perché il perdono non sarebbe più un atto di grazia, ma il risultato di un merito. Ritenere di avere ancora dei diritti sul colpevole significa non avere ancora perdonato. Concedere il perdono rimane sempre una cosa difficile, soprattutto quando gli altri hanno commesso dei torti più gravi verso di noi. Uno dei testi più discussi in merito al perdono è quello di Matteo 16, 13-19. Poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «Chi dicono gli uomini che io il figlio dell'uomo sia?» Ed essi dissero: «Alcuni, Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, o uno dei profeti». Egli disse loro: «E voi, chi dite che io sia?» E Simon Pietro, rispondendo, disse: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù, rispondendo, gli disse: «Tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli». Secondo il cattolicesimo, in questo episodio Gesù avrebbe conferito a Pietro l'autorità di rimettere i peccati, autorità che sarebbe in seguito stata trasmessa ai suoi successori, mentre il protestantesimo ritiene che Gesù abbia dato l'autorità a tutti i credenti di dichiarare il perdono dei peccati tramite la fede posta in Cristo. Poiché una menzogna deriva sempre da una verità, diversamente ciò che viene detto è da ritenere una favola, occorre considerare dove cattolicesimo e protestantesimo hanno detto una verità. Il cattolicesimo ha detto una verità nell'affermare che Gesù ha conferito a Pietro l'autorità di rimettere i peccati, ma non ha continuato col dire che questa autorità è stata data anche a tutti gli uomini. In effetti, quando Gesù parlò delle relazioni interpersonali, si espresse in questa maniera: «Ora, se il tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello, ma se non ti ascolta, prendi con te ancora uno o due persone, affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Se poi rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa, e se rifiuta anche di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano». In verità vi dico che tutte le cose che voi avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo. Matteo 18, 15-18. L'ordine che Gesù diede a Pietro di rimettere i peccati lo diede pure a tutti coloro che erano stati offesi. Non vi è dunque nel pensiero divino una casta superiore o particolare di uomini alla quale sia stato dato di perdonare i peccati dei loro simili commessi nei confronti di altri, ma ognuno di noi ha il diritto e il dovere di perdonare i peccati commessi nei nostri confronti. Questo principio di perdonare il prossimo lo troviamo nelle lettere degli Apostoli, quali più di una volta ordinano ai credenti di perdonare. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro, e come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. Colossesi 3, 12-13. Dunque, ogni persona offesa può rimettere i peccati commessi nei suoi confronti. Da notare, ogni persona offesa può rimettere i peccati commessi nei suoi confronti. Ma non è stato dichiarato che alcuno possa perdonare chi commette dei peccati nei confronti di Dio. Eppure, il cattolicesimo romano ha la pretesa di perdonare i peccati che gli uomini commettono contro Dio, mediante un'autorità religiosa quale il sacerdote, il vescovo o il papa. Questo aspetto, se fosse vero, eleverebbe il credente cattolico al di sopra di Dio, perché mentre Dio perdona i peccati commessi contro di lui, questi uomini religiosi perdonerebbero peccati che non li riguarderebbero personalmente. Credo che il perdono dei peccati da parte del cattolicesimo tocchi l'apice di alcune sue eresie. Per il cattolicesimo romano non sono solo i sacerdoti ad essere strumenti per il perdono dei peccati, ma anche i sacramenti, quali il battesimo, che è il primo e principale sacramento per il perdono dei peccati. In una società di cultura cattolica questo viene accettato come una verità scontata, come si accetta la legge di gravità, ma se guardassimo la religione cattolica romana dal di fuori, con la stessa obiettività con la quale noi osserviamo la religione induista, per citarne una, e dove si dà per scontato che le mucche siano sacre mentre sappiamo che non lo sono, forse ci verrebbero dei brividi di paura. E se tutta l'impalcatura del perdono dei peccati del cattolicesimo fosse sbagliata? Qui non si tratta di un problema marginale, perché se i peccati non sono perdonati significa che i presunti perdonati sono ancora colpevoli e degni di perdizione. La posta è troppo alta per essere ignorata. Il tema del perdono dei peccati non è allora una sola curiosità, ma un argomento di importanza estrema, prioritaria. Occorre assicurarsi di ciò che crediamo prima che sia troppo tardi. Se l'ignoranza non giustifica il colpevole sulla terra, quanto non lo farà più in cielo? Proprio perché il perdono per essere tale è simile a quello di Dio, è necessario aggiungere l'altro aspetto della medaglia. È vero che Dio ha perdonato senza condizioni, che non ha aspettato un miglioramento di chi ha sbagliato, ma è altresì vero che il peccatore deve pentirsi e abbandonare l'errore per entrare in comunione con Dio. È vero che Dio ha riconciliato in Cristo l'uomo con Lui, ma è altresì vero che Paolo dice «Siate riconciliati con Dio», 2 Corinzi 5:20. Così è del rapporto con il prossimo. Noi siamo chiamati a perdonare i torti altrui, ma è altresì vero che i torti dividono il rapporto con il prossimo. Una lite furiosa, un inganno finanziario, una calunnia diffamatoria hanno il potere di creare una barriera nelle relazioni con il prossimo. I rapporti non sono più quelli di prima, e perciò è necessario un atto mediante il quale tutto viene ristabilito, atto che consiste nel riconoscere il proprio torto e chiedere perdono. E questo è ciò che Gesù disse. State attenti a voi stessi. Se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo, e se si converte, perdonagli. Luca 17. Negli altri Evangeli non viene messa nessuna condizione per perdonare il prossimo. Ma l'Evangelista Luca mette come condizione la conversione. Perché la conversione come sta scritto in greco? E non il pentimento. Perché il pentimento è solo un atto della conversione. Uno può pentirsi e non ravvedersi. L'apostolo Giuda si pentì ma non si ravvide. Così, il ravvedimento è l'atto mediante il quale uno riconosce di aver sbagliato, chiede perdono e rimedia per quanto gli è possibile. Dunque, mentre il perdono è esteso a tutti senza condizione, la riconciliazione dipende da un presupposto. Questo atteggiamento è in armonia con tutto il resto della Scrittura. In effetti, Gesù disse la stessa cosa in Matteo 18:15-18. Ora, se il tuo fratello ha peccato contro di te, vai e riprendilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello, ma se non ti ascolta, prendi con te ancora uno o due persone, affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Se poi rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa, e se rifiuta anche di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità vi dico che tutte le cose che voi avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo. Secondo la scrittura, quando un torto che non ci lascia sereni e in pace, si deve cercare la riconciliazione. Prima, in privato, in caso di un mancato accordo, si chiamano dei testimoni ad ascoltare. Se questo non ha successo, si fa presente il tutto alla comunità. Se per caso la persona ripresa non ascolta, essa deve essere trattata come uno qualsiasi. In questo caso la scrittura comanda di trattare il prossimo come un pagano, ma simile espressione non vuole intendere che la persona deve essere ritenuta nemica, bensì che non vi sia una relazione fraterna. In effetti Gesù non ha mai detto che i pagani devono essere trattati da nemici, anzi, ha ordinato di amarli pregando per loro e facendogli del bene. Perciò, mentre il perdono dei torti deve essere dato sempre e comunque, il perdono della riconciliazione dipende dal ravvedimento del prossimo. E questo va da sé. Se un fratello mi ruba del denaro in casa, io lo perdonerò, ma se non riconosce il suo torto, è sicuro che io non lo lascerò solo in casa mia. Se una sorella non mi restituisce un mio libro e non riconosce questa sua manchevolezza, è sicuro che farò il possibile per non dargli altri libri. Non ho nulla né contro il fratello e la sorella, ma i nostri rapporti non sono più quelli di prima. Del resto anche Paolo ordina ai credenti di non avere comunione con chi chiamandosi fratello si comporta disordinatamente. 1 Corinzi 5 e 11. Molto probabilmente è proprio per la mancanza del riconoscere i torti e di dare e ricevere perdono che le convivenze, sia matrimoniali sia fraterne, sono sempre incrinate se non inesistenti. La parola di Dio ci ricorda che un fratello offeso è come una città forte, e le liti come le sbarre di una fortezza. Proverbi 18 e 18. Per quanto un coniuge o un fratello facciano tutto il possibile per fare finta di niente di quello che è successo, per ripristinare dei rapporti incrinati o rotti occorre un miracolo. E questo miracolo si chiama confessione di peccato e perdono. Dopodiché il perdono lascia una seconda e terza possibilità, quel perdono che desidera recuperare i rapporti di prima, perché l'amore è più forte dei torti, quel perdono che di fronte ad una confessione dei torti lascia curare definitivamente la ferita. Come il segreto di una comunione con Dio sono la confessione dei peccati e il perdono, così è dei rapporti con il prossimo. Gesù ha parlato molto del perdono perché vuole per noi ogni bene. In effetti la mancanza del perdono del prossimo porta delle gravi conseguenze. È opportuno ricordare la preghiera del Padre nostro in Matteo 6, 7 e 16. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà in terra come in cielo, dacci oggi il nostro pane necessario. E perdonaci i nostri debiti come anche noi perdoniamo i nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tu è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. Perché, se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Come interpretare che il Padre nostro non perdona le nostre offese quando nella Scrittura leggiamo che Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli? Vi possono essere ancora delle offese che Dio deve perdonare. Vi sono delle offese da parte di Dio che sono condizionate da un sé. La risposta è sì, perché Dio perdona se noi perdoniamo. Come può Dio ritenere delle colpe in sospeso se chi pone fede in Cristo ha perdonati tutti i peccati? La spiegazione dipende molto da come interpretiamo la parola perdono. Il verbo perdonare deriva da un termine greco che significa lasciare andare, lasciar correre, mettere spontaneamente in libertà una persona o una cosa su cui, o per diritto o di fatto, si può disporre. Così, se noi non lasciamo libero il prossimo che ha commesso delle colpe contro noi stessi, se lo riteniamo ancora debitore, Dio terrà ancora conto i nostri peccati commessi nei riguardi della sua persona o del prossimo. Questo implica che a volte portiamo le conseguenze dei nostri errori. Ezechiele 9:10, 17:19, 23 e 49. In questo senso Dio non perdonano, siamo ancora liberi, ma siamo ancora oggetti della sua punizione, della sua correzione. Gli israeliti avevano una concezione sintetica della vita secondo la quale un'azione è strettamente legata alla sua conseguenza, e non subire l'effetto di un'azione sbagliata è l'atto del perdono di Dio. Se io passo distrattamente con il rosso in un semaforo, è un atto di misericordia di Dio se non subisco un incidente, se invece Dio mi ritiene debitore perché non ho perdonato al mio fratello, può anche permettere che subisca un incidente. Ovviamente questa è una probabilità, perché non spetta a noi giudicare le ragioni delle sofferenze. L'esempio serve solo per spiegare cosa si intende quando Dio non perdona. Come sta scritto, il giudizio sarà senza misericordia per chi non ha usato misericordia. Giacomo 2,13. E in questo senso che molto probabilmente dobbiamo intendere una delle dichiarazioni di Gesù più difficili. Gesù stava dando delle disposizioni del come si deve convivere con chi ha commesso dei torti nei nostri confronti, e poiché Pietro chiese quante volte doveva perdonare il prossimo, il maestro raccontò la parabola del creditore spietato, e cioè di un re che aveva condonato ad un suo servo un debito enorme, e questo, nell'incontrare subito dopo un suo debitore, non gli condonò un piccolissimo debito. La conclusione di Gesù non è di facile interpretazione. Allora il suo padrone lo chiamò a sé e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito, perché mi hai supplicato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, come io ho avuto pietà di te?» E il suo padrone, adiratosi, lo consegnò agli aguzzini finché non avesse pagato tutto quanto gli doveva. «Così il mio Padre Celeste farà pure a voi, se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello i suoi falli.» Matteo 18, 32-34. Nella preghiera del Padre nostro Gesù mette l'enfasi che il Padre non perdona a chi non perdona il suo fratello, ma in questa occasione specifica che il Padre consegnerà agli aguzzini coloro chi non avrà avuto pietà nei confronti di chi è debitore. Chi sono questi aguzzini ai quali il Padre consegna chi non perdona di cuore al fratello i suoi falli? Per il cattolicesimo romano non vi sono dubbi, questo è il purgatorio, cioè il luogo, come dice il Catechismo 1054, dove coloro che muoiono nella grazia e nell'inimicizia di Dio, ma imperfettamente purificati benché sicuri della loro salvezza eterna, vengono sottoposti, dopo la morte, ad una purificazione al fine di ottenere la santità necessaria per entrare nella gioia di Dio. Ma poiché questo è un dogma creato dagli uomini, è più opportuno trovare una spiegazione altrove. Dopo quello che abbiamo esaminato, è più che opportuno ritenere che gli aguzzini siano persone in giù. Come si è comportato, così riceve. Del resto è ciò che si chiede nella preghiera del Padre nostro. Rimettici i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Inoltre, l'essere trattati come si trattano gli altri è in armonia con tutta la Scrittura quando afferma che ognuno riceverà la ricompensa secondo l'opera delle sue mani. Proverbi mezzogiorno e 14. Oppure non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Galati 6, 7. Il perdono di Dio non esclude le altre leggi, sia della natura, sia quelle spirituali. Pensare che una volta perdonati i nostri peccati non abbiano più delle conseguenze è un'utopia che spesso paghiamo cara. Rimane da prendere in esame un altro aspetto, quello del legare e sciogliere. Si potrebbe anche ignorare se non fosse che cattolicesimo e protestantesimo su questo atteggiamento sono in pieno disaccordo. Come abbiamo considerato quando Gesù disse a Pietro: «Io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli.» Giovanni 16, 13-19. Questo potere lo diede a tutti gli uomini. Matteo 18, 15-18. In questa capacità di legare o sciogliere non vi è solo l'aspetto del perdono, ma anche quello della mancanza di perdono. Gesù ha detto che tutti gli uomini possono sciogliere, ma anche legare. Cosa significa per noi oggi questo linguaggio? Che cos- è e cosa significa che gli uomini hanno il potere di legare e sciogliere. Il legare o lo sciogliere è certamente riferito ai peccati. Ma come interpretare che ciò che si scioglie o si lega è sciolto e legato anche in cielo? L'uomo ha dunque un potere che va oltre a quello terreno? L'uomo ha dunque il potere di perdonare i peccati o rimetterli come fa Dio? L'uomo ha la stessa autorità di Dio, anzi, ne avrebbe di più perché lui è soltanto un uomo. Queste domande non possono essere ignorate. Il discorso di Gesù era inteso a voler dire e ricordare che il nostro comportamento su questa terra ha una ripercussione in cielo. Perciò quando noi perdoniamo, cioè lasciamo andare libero il nostro debitore, Dio tiene conto che noi abbiamo perdonato. Mentre se noi non perdoniamo i nostri debitori, cioè lui è legato a noi, ciò viene registrato anche nelle assise celesti. Questo aspetto ribalta l'interpretazione del cattolicesimo romano, secondo la quale Pietro, vescovi e sacerdoti hanno un potere intrinseco di rimettere i peccati. Ma Gesù si è limitato di ricordare che le nostre azioni sono registrate in cielo, perciò se noi non perdoniamo, come disse Gesù, neppure il Padre nostro perdona a noi. Solo chi ha la mania del potere legge la scrittura in funzione del potere, ma Gesù ha parlato della indispensabilità di perdonare per farci comprendere il vantaggio che ne abbiamo. Poiché il perdono, come l'amore, non può essere imposto, perché non sarebbero più né amore né perdono, Gesù si è limitato a mettere in evidenza le conseguenze di un nostro atteggiamento negativo nei confronti del prossimo. Non perdonare significa rompere il ponte sul quale noi tutti dobbiamo passare. Prima o poi tutti abbiamo bisogno di essere perdonati e se noi riteniamo ancora debitori chi ci ha fatto torto, il Padre Celeste non perdona i nostri falli. Uno dei maggiori ostacoli nel progresso di un buon rapporto con il prossimo è il risentimento. Negando il prossimo il perdono ci autodistruggiamo spiritualmente, moralmente e fisicamente. Nonostante questa incontestabile realtà, realtà che occupa nella parola di Dio un posto di prim'ordine, il perdono dato e ricevuto rimane un'esperienza rara. Vi sono persone che dicono di aver perdonato, sostengono apertamente di aver dimenticato i torti, ma dopo qualche tempo, anche dopo 10, 20, 30 anni, ecco riaffiorare il diritto di richiesta di perdono o di risarcimento. La convivenza fraterna e matrimoniale sarebbero veramente buone e piacevoli, Salmo 133, se i nostri crucci, rancori, non andassero oltre al tramontar del sole, Efesini 4 e 26. Se ogni mattina ci alzassimo liberi dal legame dei torti altrui, gusteremmo appieno la vita che Dio ci offre. Il perdono rimane uno degli atti più difficili della vita, e per questo sono pochi coloro che perdonano volentieri. Altri invece pensano di aver perdonato ma si accorgono con terrore di non averlo fatto. Altri ancora vorrebbero perdonare ma non sanno in cosa consista il perdono. È necessario sapere in che cosa consista il perdono perché di fronte all'ingiustizia si presentano tre strade. 1. Quella della replica con la quale si ritorce il male. 2. Quella di non replicare ma di non perdonare, con la quale si tiene dentro di noi la rabbia. 3. Quella del vero perdono con la quale si rompe la catena del male. Perciò consideriamo il perdono quello vero, quello cristiano. Il perdono cristiano non è indulgenza. L'indulgenza è uno sforzo, tende a cercare le circostanze attenuanti, tende a scolorire le offese, a mentire in qualche modo a noi stessi, a fare violenza alla propria coscienza per scusare gli altri. L'atteggiamento di mostrarsi indulgenti e caritatevoli, per quanto nobile sia, non porta mai al vero perdono. Il vero perdono è un miracolo. Chi perdona, guarda il male in faccia, lo misura in tutta la sua forza e poi lo perdona proprio perché c'è, è il male. Così come Dio ci ama a causa del nostro peccato e non a causa delle nostre qualità. Il vero perdono comincia col riconoscere il male e col confessare l'istintivo sentimento di indignazione che esso suscita sempre in noi. Poi offre tutto a Dio per ritrovare la pace. Perdonare non significa dimenticare.